Spesso si dice che noi abbiamo un cervello, ma in realtà noi siamo il nostro cervello. Noi siamo ciò che pensiamo, perché è quello che pensiamo che ci porta ad essere quello che siamo. Questa verità dovrebbe occupare costantemente la nostra mente perché sia che ci crediamo, sia che non ci crediamo, noi ci comportiamo in base a quello che pensiamo. È impossibile pensare in un modo e agire in un altro. A meno che ovviamente non ci sia qualche squilibrio mentale. Così, se a me piace il riso, è ovvio che lo mangi volentieri. Se mi piace la montagna, è ovvio che cerco di fare delle passeggiate sui monti. Se una persona mi è simpatica, cerco la sua compagnia, mentre se mi è antipatica, la sua presenza non mi è sempre gradita. Il nostro cervello è dunque la camera dei bottoni, nella quale vengono prese le decisioni della nostra vita, sia quelle buone e cattive, quelle consapevoli e inconsapevoli. Perciò, trascurare di avere delle attenzioni nei confronti del nostro cervello, cioè la nostra mente, è uno degli errori più gravi che una persona possa commettere. Il nostro cervello meno, o la nostra mente meno, si può trascurare nel suo aspetto materiale con una alimentazione sbagliata, come chi beve dell'alcol oltre misura ubriacandosi, oppure, dal punto di vista intellettivo, lo si può trascurare nutrendolo con pensieri che sono negativi per il benessere psichico e fisico. Occorre perciò fare molta attenzione agli stimoli che entrano nell'organo più importante della nostra personalità, e questi stimoli arrivano attraverso diversi accessi, quali la vista, l'udito, il tatto, il gusto, la comunicazione verbale, perciò la prevenzione per la cura della nostra mente deve essere a 360 gradi. Nulla deve essere lasciato al caso, perché il caso, meno inteso come disordine meno, non ha mai prodotto nulla di armonioso e di utile, neppure il cosmo attuale, come invece si continua ostinatamente a sostenere. Controllare quindi il più possibile queste vie di entrata è l'atto di saggezza più grande di un essere pensante come l'uomo. E mantenerle il più possibile in funzione è il doveroso atto di accortezza per rallentare l'invecchiamento e le varie patologie psicologiche, quali l'isolamento, la scontentezza, la depressione o la perdita della capacità di divertirsi. Infatti, la maggior parte delle malattie, sia fisiche sia emotive, sono il risultato di una mente disordinata. Non per nulla è stato detto e si dice mente sana, corpo sano. Il nostro cervello è talmente importante che alcuni scienziati stanno gettando le basi per la realizzazione entro pochi anni di impianti che potrebbero riparare i cervelli alterati dal morbo di Alzheimer, dall'ictus e da altre gravi patologie. È stato calcolato che nel 2005 30.000 persone hanno subito l'impianto di un dispositivo nel cervello che ne stimola elettricamente alcune precise strutture per neutralizzare i sintomi del morbo di Parkinson e di altri gravi disturbi del movimento. Anche molte altre malattie di carattere prettamente somatico hanno la loro origine dal nostro modo di pensare e atteggiarsi nella vita. Come è stato detto, non sono le cose che ci turbano, ma l'opinione che abbiamo di esse. In effetti, nelle stesse situazioni le persone reagiscono in modi diversi, perché diversi sono gli input che il cervello riceve. In un giorno ordinario di temporale, di lampi, fulmini e pioggia, alcuni godono lo spettacolo offerto dalla natura, osservando questi cambiamenti climatici, mentre altre persone sono terrorizzate e si nascondono in un luogo buio, finché il tutto è passato. Anche certi animali sono terrorizzati dai temporali. Se gli uomini avessero capito, meno o meglio fossero convinti, meno che quasi la totalità del loro benessere dipende da una mente sana, equilibrata, informata, ben istruita, religiosamente onesta e riconoscente, spenderebbero meno soldi in medicine, impiegherebbero molto più tempo a educare il loro cervello ad un giusto atteggiamento verso la vita. Il valore di una mente sana è dimostrato da certi raccapriccianti episodi. Per esempio, Luigi Chiatti, definito il mostro di Foligno perché nel 1992 aveva brutalmente ucciso due bambini, ad un certo punto del processo, affermò che se fosse uscito in quel momento dal carcere, avrebbe sentito il desiderio di cercare un altro bambino e forse anche di ucciderlo. Eppure, Ai periti si presentava senza sentire alcuna colpa perché aveva dei problemi così gravi da averlo costretto a uccidere. Si sentiva moralmente assolto. Il 24 dicembre 1994 la Corte di Assise lo condannò all'ergastolo, negandone l'infermità mentale. In seguito, grazie alla testimonianza di un suo compagno di infanzia con il quale egli trascorse i primi anni di vita nell'orfanotrofio di Narni, fu riconosciuto semifermo di mente e sofferente di una grave e profonda immaturità delle strutture della personalità, causata dalla violenza di un prete nei confronti dei due bambini e che provocò in chiatti uno stato mentale con tratti sadici, schizzoidi, paranoidi, ossessivi e fobici. Che cura dare a questo giovane? Somministrargli forse degli psicofarmaci? All'inizio forse sono utili, ma il compito più grande di chi vuole recuperare quel giovane sarà quello di ripulire pian piano una mente sconvolta per impiantarvi nuovi concetti morali. E la mente di Luigi Chiatti a dover essere modificata, in seguito egli modificherà il suo comportamento perché noi siamo il nostro cervello. Proprio perché il nostro cervello, o la nostra mente, è l'organo principale che ci fa essere quello che siamo, la parola di Dio si rivolge molto spesso alla mente dell'uomo, invitandolo a tenerne conto e ad usarla rettamente, santamente, per amare Dio. In effetti, il più grande comandamento è rivolto anche al cervello. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. Marco mezzogiorno e mezzo. Le componenti a disposizione dell'uomo per esprimere l'amore sono quattro, e mancando una qualsiasi di queste, l'amore è difettoso. Dell'amare l'Eterno Dio come egli ne è degno, meno, e di conseguenza, anche il prossimo, occorre impegnarsi con tutto il cuore, termine usato dalla Scrittura per indicare la volontà. Occorre impiegare tutta l'anima, cioè la sede della nostra personalità. Occorre impiegare tutte le forze fisiche e morali a nostra disposizione. E infine, per amare Dio occorre mettere la nostra mente a sua completa disposizione e impegnarla a cercarlo e a vivere per Cristo. Ho ancora presente la mia resa a Dio avvenuta a 21 anni, quando messo alle strette dallo Spirito Santo mi dibattevo per non consacrare completamente a Cristo la mia vita. E gli ostacoli che mettevo davanti a Dio erano tre. 1. Volevo del tempo. Ero disposto a credere in Cristo, ma ero ancora giovane e volevo arrendermi a Lui solo dopo aver trascorso ancora degli anni vivendo a modo mio. 2. Volevo la certezza del futuro. Dare la mia vita a Cristo significava per me la massima incertezza, perché da quel momento avrei fatto solo ciò che Gesù Cristo voleva. E io non conoscevo i suoi progetti per me. 3. Infine, volevo capire, prima di arrendermi completamente al Dio Trino, questo era l'ostacolo più grande per me. Dover sottomettere tutta la mia intelligenza, le mie certezze, dover abdicare a ciò che fino a quel momento aveva fatto di me quello che ero, in definitiva rendere una volta per sempre soggetto il mio cervello a Dio, è stato il trauma più grande della mia esistenza. Tanto grande che da quel giorno non sono più io. Quel giorno del mese di maggio ha realizzato una morte totale. Alla mia volontà, al mio io, una decisa rinuncia ad usare le forze fisiche che possiedo per me. Ma soprattutto, il cervello del quale sono in possesso non è più mio, e Dio ha il potere di gestirlo come vuole. Questo è stato l'ostacolo più grande per me, ma per esperienza posso dire che sia l'ostacolo vero e proprio anche di chi non vuole porre fede in Cristo. Pochi hanno compreso che la vera lotta per un reale abbandono a Dio ha il proprio campo di battaglia nella mente, più che nella volontà. Vi sono persone che vorrebbero anche credere, ma non sono disposte a cambiare il loro modo di pensare, mentre è proprio questo che Dio vuole. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino». Matteo 4,17. Dopo 2000 anni le persone hanno frainteso cosa significa ravvedersi o in che cosa consista il ravvedimento. Molti pensano che il ravvedimento sia temere Dio quando si è in pericolo. Credono che sia una sensazione come provare del rimorso. Altri pensano che il ravvedimento consista nell'avere convinzione di peccato, oppure sia mettersi a pregare o a leggere la Bibbia. Benché il ravvedimento contenga questi aspetti, questi comportamenti si possono ottenere anche senza che vi sia stato un vero ravvedimento, perché ravvedersi significa niente più del significato etimologico della parola, e cioè vedersi di nuovo o rivedere se stesso. Vedersi di nuovo significa cambiare mentalità, significa considerare le cose da un altro punto di vista, il che vuol dire acquistare una nuova mente. Infatti, se il primo comandamento è di amare Dio con tutta la nostra mente, vuol dire che debbo anche essere disposto a cambiare opinione su Dio, sugli altri e su me stesso. E questo è normale. Si pensa che Dio sia buono e che alla fine perdoni tutti. Si pensa che in fondo la società non sia così malvagia. Si è convinti di essere dei peccatori ma non meritevoli dell'inferno. In genere queste sono le opinioni che abbiamo noi tutti. Poi viene il giorno in cui ci confrontiamo con il messaggio del Vangelo, veniamo a conoscenza che Dio ha preparato l'inferno per coloro che non lo amano, che la società è condotta dalle potenze malvagie delle tenebre, che noi siamo dei peccatori perduti e degni solo di andare all'inferno. Veniamo a sapere che il peccato non è una debolezza dell'uomo, ma che esso abita nel cuore di ogni persona e che ci mantiene separati da Dio. Inoltre, sempre mediante il messaggio del Vangelo, sappiamo che ogni nostra opera non vale a nulla per essere salvati, che l'essere religiosi non ha alcuna utilità per accedere alla vita eterna. Infine, nella nostra disperazione, Dio ci comunica che Gesù Cristo è morto per tutti, affinché chiunque pone fede in Lui come l'unica soluzione ai suoi peccati abbia la vita eterna. Questo messaggio suona così totalmente nuovo e sconvolgente per la nostra morale originaria da imporci di riflettere e fare una scelta. O noi continuiamo a pensarla come prima, oppure rivediamo di nuovo le nostre opinioni, mettiamo in discussione convinzioni radicate da anni e confermate da millenni dalla nostra religione, riconosciamo i nostri errori e cambiamo il nostro atteggiamento mentale. Non vi sono alternative. Nella sua meravigliosa lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo inizia per due terzi della sua esposizione a presentare le varie dottrine del cristianesimo. Egli esordisce presentando l'universalità del peccato, e cioè che tutti gli uomini sono peccatori. Continua parlando della giustificazione per fede, cioè la possibilità di essere giusti davanti a Dio mediante un atto di fede in Cristo. Poi passa a trattare della necessità della santificazione, cioè di avere una condotta secondo il volere di Dio. In seguito tratta l'argomento della glorificazione del credente, cioè quello che sarà del suo futuro. Infine parla del popolo di Israele e del suo ruolo nella storia delle nazioni. Dopo aver esposto egregiamente ogni dottrina, inizia il discorso in merito a come il cristiano deve vivere in modo pratico il cristianesimo, con le seguenti parole. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Romani 12:1-2. Paolo fa appello alla necessità che i suoi lettori rinnovino la mente, e questo non per voler essere diversi e correre dietro alle novità, ma come risultato dell'aver compreso l'amore di Dio. Nessuno è disposto a cambiare la parte più profonda del proprio essere, meno quale la mente meno a meno, meno che non ci sia una motivazione ancora più sconfinata, e questa ragione può essere solo un sincero e smisurato amore per Dio. L'amore, quello vero, porta ad estremi sacrifici e ad estreme rinunce. Per questo chi ha posto fede in Cristo può offrire il proprio corpo a Dio come strumento di servizio per Dio, e soprattutto il suo cervello, cioè la sua mente. Chi presenta il cristianesimo spesso fa appello alla volontà, fa appello alla necessità di dedicare a Dio ogni cosa, compreso il denaro e i propri sentimenti. Ma oltre a questi aspetti, occorre anche mettere in enfasi che una vera conversione comporta soprattutto un cambiamento di mente. Se noi siamo il nostro cervello, se siamo ciò che pensiamo perché è quello che pensiamo che ci porta ad essere quello che siamo, allora nel messaggio concernente il vivere un cristianesimo ad alto livello, l'argomento del nostro cervello è un argomento primario, anche perché una mente sana produce un corpo sano. Il cervello è l'organo dove Satana lavora maggiormente. Spesso ci si domanda la ragione per la quale le persone ascoltano l'Evangelo per anni e anni non discostandosi mai da un atteggiamento indifferente nei confronti di questo. Ci si domanda se per caso la parola che si predica non sia abbastanza chiara, ma anche se è vero che esiste questa possibilità la maggioranza delle volte, le persone ascoltano l'Evangelo e rimangono sempre quelle perché la loro mente è impedita a comprendere. Qual è la causa? Difficile dirlo, ma la parola di Dio afferma senza ombra di dubbio che una ragione per la quale gli uomini non comprendono il messaggio del Vangelo relativo a Cristo è perché Satana ha accecato le menti. Così, nella sua seconda lettera ai Corinzi, si è espresso in merito Paolo, riferendosi al suo ministero di predicazione del messaggio di Cristo. Perciò, avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. 2 Corinzi 4.1 4. L'Apostolo Paolo ha dedicato interamente la sua vita a predicare l'Evangelo e Dio, nella sua grazia, gli ha dato di vederlo accettato da molte persone, ma altresì ha visto moltissime persone respingerlo per non averlo compreso. L'Apostolo delle genti non si è mai demoralizzato perché, come era cosciente che solo lo Spirito Santo era in grado di far comprendere il messaggio del Vangelo, così sapeva che Satana, l'avversario di Dio e nemico delle anime, impediva alle menti delle persone di comprendere il messaggio relativo a Gesù Cristo. Il cervello è l'organo dove Satana lavora maggiormente, perché sa che se uno non comprende il messaggio di salvezza contenuto nel Vangelo non può porvi fede, e se incapace a porvi fede, non può di conseguenza ottenere la salvezza. Molti hanno l'opinione sbagliata che sia sufficiente avere una buona disposizione nei confronti di Dio per ottenere la salvezza, e se anche questo aspetto è importante, non è sufficiente. Perché non è possibile porre fede in ciò che non si conosce o non si comprende. L'opera di Satana nell'incredulo non si limita solo ad impedirgli la comprensione della parola di Dio, ma la sua opera nella mente dell'uomo continua nel fargli dimenticare ciò che ha udito. In effetti, nella parabola del seminatore raccontata da Gesù, il seme che viene portato via dagli uccelli è paragonato a coloro che odono la parola, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, cioè dalle loro menti, affinché non credano e non siano salvati. Luca 8.1.1.12. Se Satana può compiere quest'opera nella mente degli increduli, lo può compiere anche in coloro che sono figli di Dio. In effetti, i credenti che abitavano nella città di Corinto avevano tante qualità e doni spirituali, amavano spassionatamente Cristo Gesù, erano zelanti nell'opera di Dio, ma le loro menti non erano pure erette. Per questo l'Apostolo Paolo ha dovuto scrivere: «Oh, quanto desidererei pure che voi sopportaste con me un po' di follia, ma infatti voi mi sopportate. Io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo, per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Ma io temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità che si deve avere riguardo a Cristo». 2 Corinzi 11.1 3. Non è sufficiente porre fede in Cristo per avere una condotta che sia gradita a Dio, e questo la maggioranza dei credenti lo sa, perché con molta attenzione evita peccati di ogni genere. ma pochi fra loro sono coscienti di dover stare attenti ai peccati dell'intelletto. Eppure la quasi totalità dei peccati nell'uomo passa prima per la mente, perché come abbiamo detto noi siamo il nostro cervello, noi siamo ciò che pensiamo, e la nostra condotta è quasi sempre il risultato di ciò che pensiamo. E quasi sempre perché a volte il credente si trova a compiere atti o a dire cose che non fanno parte del suo pensiero, come un adulterio improvviso o una parola impropria. Ma dobbiamo anche riconoscere che molte volte moralizziamo il nostro comportamento senza per questo condannarlo alla sua radice. Prendiamo per esempio l'ira. Si può condannare il risultato dell'ira perché non è morale, ma pochi sono coloro che condannano l'ira per quella che è, come pure l'adulterio. Si può odiare e condannare perché si è infedeli al coniuge, perché produce molti problemi. Ma chi lo condanna semplicemente dichiarandolo per quello che esso è in concreto, ossia una trasgressione alla legge di Dio? Il bambino può essere dispiaciuto di aver rubato la marmellata, perché gli è venuto mal di pancia, o perché è stato sorpreso sul latto, ma in fondo è veramente dispiaciuto di aver commesso quella gustosa e invitante trasgressione. Satana è in grado di sedurre le menti degli uomini molto abilmente. Se Satana è così abile nel sedurre le menti, il credente deve rinvolgere tutte le sue energie a proteggere la mente e a modificare la sua condotta secondo la trasformazione della mente operata dallo Spirito Santo. Pochi credenti hanno compreso che è possibile avere un cuore nuovo, una vita nuova, pur non avendo rinnovato la propria mente. Una vita nuova, un cuore nuovo, senza avere una mente nuova, è una drammatica realtà molto frequente nei figli di Dio. La maggioranza dei credenti si preoccupa di amare Cristo con un rinnovato interesse, si preoccupa di non compiere cose sgradite a Dio, ma se questo non è il risultato del rinnovamento della loro mente, prima o poi essi ritorneranno alla vita di prima o abbandoneranno ogni espressione religiosa. Quando si compie un'azione giusta e buona, senza che questa sia il risultato di una convinzione prodotta dallo Spirito Santo, al primo ostacolo si abbandona la verità. Questo spiega perché alcune persone si adeguano alla vita comunitaria dei figli di Dio, partecipano con gioia alle loro riunioni, godono dei benefici cristiani, ma la loro condotta è più una imitazione e un desiderio di piacere a Dio che la giusta convinzione. Queste persone sono citate nella lettera agli Ebrei e che tanti figli di Dio hanno erroneamente individuato nei nati di nuovo, quelli infatti che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire se cadono, è impossibile riportarli un'altra volta al ravvedimento, poiché per conto loro crucifiggono nuovamente il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Ebrei 6.4.6 Non è possibile giocare al cristianesimo come non è possibile ingannare Dio, perciò anche se la mente ha avuto una certa chiarezza in merito alla verità, se la verità non viene fermata a livello del ragionamento, se non viene masticata, la volontà non può far leva su ciò che non è un punto di appoggio. Prendiamo ad esempio la preghiera. Se mediante il Vangelo vengo a conoscere che vi è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, cioè Gesù Cristo, se non metto a confronto le mie abitudini religiose di avere come intermediari tra me, Dio, Maria o i santi, se non ritengo errato il mio comportamento con la verità rivelata, se non mi lascio cambiare dalla verità, il mio cervello non compie il suo dovere di trasformare le mie abitudini. Per chi ha posto fede in Cristo quale unico salvatore, unico padrone, la più grande necessità è quella di essere trasformati mediante il rinnovamento della mente. Una mente rinnovata è una vita cambiata, mentre una vita cambiata non significa automaticamente che la mente sia stata rinnovata. Una mente rinnovata ha altri valori morali, altri obiettivi, altre speranze, altre certezze. Prima si era alla disperata ricerca di Dio. Ora, con una mente rinnovata, benché si sia trovato Dio, lo si cerca per conoscerlo sempre più. Prima vi era un'insaziabile insoddisfazione in ogni cosa, ora, con una mente rinnovata, si è appagati in Cristo e si attinge ogni giorno da Lui per ricevere sempre più una vita abbondante. Prima si era scontenti di tutto, ora, trasformati mediante il rinnovamento della mente, tutto è ragione di gioia. Prima si era condotti e si era schiavi dalle proprie passioni, ora, con una mente rinnovata, l'unica vera passione è vivere per Cristo e morire per Lui. Prima si cercava l'ammirazione del prossimo, ora, trasformati mediante il rinnovamento della mente, si cerca solo l'approvazione di Dio. Prima, il grande obiettivo nella vita era emergere nelle discussioni, nella società, in famiglia. Ora, con una mente rinnovata, si cerca il vero successo che è simile a quello di Cristo, cioè l'umiliazione. Quando si è trasformati mediante il rinnovamento della mente, la condotta parla più delle nostre parole. Gesù disse che il mondo conoscerà i suoi seguaci dall'amore, che questi avranno gli uni per gli altri, e l'amore non è tanto un sentimento o una emozione, ma è un comportamento di attenzione e di sopportazione nei confronti del prossimo. Una mente rinnovata cambia totalmente la prospettiva della vita. Prima si amava il prossimo per interesse, ora si ama chi è nato di nuovo, perché l'amore di Dio che è in noi ci porta ad amare i fratelli in fede come è stato da Dio amato. Una mente rinnovata rivaluta il concetto di amore e comprende che il vero amore inizia proprio quando terminano le sue risorse affettive umane. Essere trasformati mediante il rinnovamento della mente è qualcosa di più che acquisire nozioni nuove, ma è permettere al nostro pensiero di modificare, con forte convinzione, atteggiamenti umani e religiosi, che non sono in armonia con la volontà di Dio. Se chi afferma di credere in Cristo non ha una vita cambiata, possiede una fede finta, o ha una fede che non scaturisce da certezze ragionate. E se noi siamo il nostro cervello, la fede e le opere compiute sono solo apparenze religiose. Vivere con una mente rinnovata non è una semplice riforma esteriore dei costumi o un miglioramento di vita ottenibile con le proprie forze, ma si tratta di un'esistenza tutta nuova che cambia categoricamente il malvagio cuore, i corrotti pensieri, che dà un senso alla vuota esistenza e al funesto eterno futuro. Se noi siamo ciò che pensiamo, dobbiamo anche agire secondo ciò che impariamo dalla parola di Dio. Come per la crescita fisica il passaggio da neonati ad adulti avviene lentamente con un adeguato nutrimento, così chi è appena nato di nuovo deve nutrire la sua mente delle sane parole di Dio per realizzare una crescita spirituale spesso nascosta. Solo quando ha acquisita una certa conoscenza di Cristo, il credente si rende conto che prima era immerso nelle tenebre più oscure. Si rende conto che scambiava per nemici coloro che erano amici e riteneva amici i suoi nemici. Solo la luce dell'Evangelo illumina la mente del credente e lo rende consapevole che, prima di conoscere Cristo, chiamava il bene male e il male bene, che i suoi sentimenti erano talmente pervertiti da amare ciò che Dio odia e da odiare ciò che Dio ama. Solo con una mente rinnovata il credente si rende conto che si credeva libero mentre invece era schiavo, si credeva buono e invece è malvagio. Sempre con una nuova mente che ha posto fede in Cristo, si rende orribilmente conto che la cosa più necessaria per Dio a lui invece appariva come la più inutile, che ricercava affannosamente il suo bene nel piacere, anziché cercare il suo piacere nel bene. E infine, con stupore e orrore, chi ha posto fede in Cristo ed ha una mente trasformata dallo Spirito Santo, si rende conto che guardava a Dio come fosse un fastidioso nemico, che confondeva il suo assenso intellettuale alle cose spirituali con una conoscenza pratica di esse, e che oltre ad essere incapace di compiere il bene, non era disponibile verso ciò che era giusto e buono. Se chi afferma di credere in Cristo non ha sperimentato questa trasformazione della mente, può essere certo di non avere una fede salvifica. E chi è nato di nuovo non ha realizzato automaticamente il rinnovamento della sua mente. Non avendo realizzato un rinnovamento della mente, non può esserci ancora una vera trasformazione di tutto l'essere, perché noi siamo il nostro cervello e siamo ciò che pensiamo. dato che quello che pensiamo ci porta ad essere quello che siamo. Perciò uno dei più grandi obiettivi del credente è verificare non solo se il suo comportamento è cambiato in giustizia, ma anche se la sua mente è stata trasformata. Essere trasformati mediante il rinnovamento delle menti è uno degli esercizi più difficili del credente, e per questo il meno ricercato. Quando Dio chiede di amarlo con tutto il nostro cuore, non abbiamo difficoltà, perché i nostri sentimenti guidati dalla volontà ci aiutano a farlo. Quando ci ordina di amarlo con tutte le nostre forze, è un piacere poter compiere qualcosa per Cristo. Quando ci ordina di amarlo con tutta la nostra anima, è sufficiente lasciarsi trasportare dal nostro amore per Dio. Ma quando si tratta di amare Dio con tutta la nostra mente, allora siamo di fronte ad un impegno molto più grande. Perché essere istruiti, imparare, conoscere, non sono attività spontanee, ma il risultato di un impegno costante e faticoso. Avere una mente sempre ricettiva e attiva per conoscere la volontà di Dio è assumersi un compito che pochi credenti hanno il coraggio di prendere. È molto più facile parlare come tutti parlano, è molto più comodo fare ciò che tutti fanno, piuttosto di ricevere direttamente dallo Spirito Santo rivelazioni e convinzioni adatte al presente secolo. Oggi più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che sappiano avere un messaggio da parte di Dio attuale, giusto e santo, che sappiano ricevere rivelazioni nella loro mente, per trasmetterle agli altri con chiarezza convincente. La mente dell'uomo è l'organo più importante del suo essere, perché tramite essa può comunicare tanto bene ma anche tanto male, se non è addestrata da Dio. Quando rifletto sul valore di una mente istruita e sottomessa a Cristo, considero la vita di migliaia e migliaia di uomini e donne che hanno prodotto un immenso benessere alla società, con opere sociali e libri eccellenti, mentre quando considero una mente senza Dio presente Ernest Hemingway, premio Nobel per la letteratura, personaggio tanto affascinante e geniale, quanto tormentato, dopo essere stato sottoposto a 20 elettroshock, confessò: che senso ha rovinare la mente e cancellare la memoria? Queste cose costituiscono il mio capitale e senza di esse sono disoccupato. È stata un'ottima cura, ma abbiamo perso il paziente. Pochi giorni dopo si suicidò. Sì, dato che noi siamo il nostro cervello, e quindi siamo ciò che pensiamo, la parola di Dio si rivolge molto spesso al cervello dell'uomo perché desidera che il credente abbia la vita migliore e l'esistenza più abbondante che possa esistere e che si possa avere. Chi vuole realizzare questo grandissimo dono? Uno dei brani più belli della parola di Dio, in merito alla necessità di usare il cervello per vivere sereni e felici, lo troviamo nella lettera ai Filippesi. Rallegratevi del continuo nel Signore, lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose, quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me, e veduto in me fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Filippesi 4.49. Per prima cosa, una mente rinnovata dallo Spirito Santo passa dalla tipica tristezza che produce la vita, ad una gioia che proviene da Dio. Chi non sa rallegrarsi in Dio, o non riesce a trovare delle ragioni di gioia in ciò che Cristo ha fatto e in quello che Dio è, deve dubitare fortemente della sua fede in Cristo. Non è possibile che chi ha posto fede in Cristo non si rallegri del perdono di peccati e della gioia della certezza della salvezza. Testimoniavo ad una persona della mia fede, e questa, essendo di religione cattolica romana, mi accusava di avere una fede diversa. Le risposi che tutto sommato avevo le basi della fede del cattolicesimo romano, con la differenza che io credo in ciò che esso professa. Infatti, mentre in ogni funzione religiosa del romanesimo si prega «Signore, abbi pietà di me», io ho accettato semplicemente il perdono di Dio offerto in Cristo. Cosa, questa, che viene insegnata dalla dottrina del cattolicesimo romano. Che Gesù sia morto per i nostri peccati non è una novità, ma lo diventa nel momento in cui credo che io di peccati non ne ho più perché sono stati tutti perdonati. E, se di peccati non ne ho più, se sono stato giustificato per fede una volta per sempre, allora vivo nella gioia del perdono di Dio e della consapevolezza che ho la certezza della vita eterna. Una mente rinnovata passa dal chiedere il perdono a ringraziare del perdono ottenuto. Se io chiedo ancora perdono quando sono stato già perdonato, che mente rinnovata possiedo? Nessuna! E questo perché la mia mente è ancora impregnata di religiosismo, il quale mi impedisce di gioire e di godere del perdono di Dio. Una volta giustificato per fede, al credente non rimane che abbandonarsi giornalmente alla volontà di Dio. Accettare i suoi piani incomprensibili che si attuano sia nel bene sia nel male. Deve avere un atteggiamento di continuo rapporto con Cristo mediante uno spirito di preghiera e attendere pazientemente la liberazione di Dio nelle varie vicissitudini della vita. Solo allora il credente realizzerà una pace interiore, ma soprattutto una pace nella sua mente. E quando la pace è scesa nella profondità di un intelletto, tutto il corpo ne ha un beneficio fino a portarlo a completa guarigione. Pochi danno valore alla pace mentale, eppure la maggioranza delle malattie sono semplicemente il risultato di una mente non serena, sono la conseguenza di un continuo tormento nella mente, una mente che non trova riposo. Alcuni tormenti che assillano la mente sono la mancanza di accettazione di se stessi e della mancanza di perdono. Molte persone vorrebbero essere diverse. Il naso è troppo lungo o storto, il mento è troppo pronunciato, il fisico potrebbe essere più longilineo. Altre non accettano il loro carattere impulsivo o troppo flemmatico, altri ancora vorrebbero assomigliare a qualche personaggio di spettacolo. Non accettare le differenze per le quali Dio ci ha creati è paragonabile a un piede che volesse essere una mano o a un occhio che volesse essere l'orecchio. Non accettare se stessi equivale a non accettare i progetti di Dio. In merito alla mancanza di perdono, il mondo è pieno di vittime e di cadaveri. L'odio, cioè la mancanza di perdono meno, procura numerose malattie sia psichiche sia spirituali. Ho davanti a me il ricordo di un ragazzo che è stato abbandonato da suo padre per andare con un'altra donna. Il giovane ragiona, e non ragiona vive e non vive, ma soprattutto non riesce a relazionarsi con nessuno. Purtroppo, molto presto sarà ricoverato in qualche istituto per malati di mente, e questo solo perché non ha perdonato a suo padre di averlo abbandonato. Quelle poche volte che parla, questo giovane vomita il suo rancore nei confronti di suo padre, nei confronti della vita e, infine, anche nei riguardi di Dio. Il tutto perché la sua mente non è serena e, di conseguenza, i suoi sentimenti profondamente feriti. Quante sono le persone che vivono con una mente turbata per mancanza di perdono? Forse troppe. Voglia Dio guarire non solo i cuori, ma anche le menti degli uomini. Perché, in definitiva, noi siamo ciò che pensiamo. Quando il credente è trasformato mediante il rinnovamento di una mente condotta dallo Spirito Santo, con un atto di volontà indirizza il suo interesse intellettuale verso tutto ciò che è vero, verso ciò che è onesto, giusto, buono, puro, amabile. Molto probabilmente occorre un po' di tempo prima che acquisisca delle convinzioni, ma in seguito, lettura dopo lettura, perseveranza e tanta voglia di imparare, la sua mente si adegua sempre più alla verità e a ciò che è giusto, di conseguenza egli si comporta secondo le nuove convinzioni ottenute. Solo dopo essersi impossessato intellettualmente dei valori cristiani, il credente realizzerà la pace intellettuale che proviene da Dio, quella pace che produce il benessere totale della persona. E, Importante sottolineare che il valore di una vita cristiana consiste in quello che si fa e non in quello che si dice, ma del resto non si può compiere nessuna azione se prima non vi è la convinzione intellettuale. Così, una dottrina e qualsiasi confessione religiosa hanno valore solo quando fanno parte dei pensieri e producono un cambiamento. Se io confesso che Gesù è il mio solo maestro e inseguito la mia espressione di fede, dipende dalla chiesa alla quale appartengo, sto semplicemente rinnegando con le opere la mia dichiarazione. Se io credo che Gesù sia il solo vero Dio e in seguito considero le divinità delle altre religioni giuste e vere, ciò che dichiaro razionalmente non è in armonia con il mio cammino. Com'è possibile che si dica una cosa e poi si faccia tutto il contrario? La risposta è una sola. Non vi è una profonda convinzione in ciò che si afferma. Ho notato questo atteggiamento in chi fuma. Ho avuto occasione di parlare con persone che fumano, e nella conversazione la maggioranza di loro ammettono che il fumo produce il cancro. Eppure fumano. Anche un mio amico diceva che il fumo fa male, ma fumava 2 pacchetti di sigarette al giorno, fino a quando non gli fu trovato un tumore nei polmoni. Da quel giorno, poiché le sue idee diventarono convinzioni, smise di fumare, meno anche se poi in seguito morì lo stesso. Perciò al credente non basta avere delle nozioni in merito alle dottrine o al cammino cristiano, egli deve anche accertarsi che le sue idee abbiano prodotto delle convinzioni. Come può verificarlo? Mettendo in pratica ciò che pensa, arrivando a adeguare il suo cammino a ciò che sostiene. Il cristianesimo non è un concetto filosofico, ma coerenza e armonia tra pensiero e azione. Una volta convinto di una verità, il credente dovrà cercare di non dimenticarla, ma questo è possibile solo coltivando le proprie convinzioni. Il termine coltivare dà l'idea di occuparsi di una pianta o di un terreno di tanto in tanto, di verificarne lo stato e di procurarle ciò di cui necessita. Così è della vita cristiana. Un credente non è mai arrivato e non dovrebbe mai sentirsi tale. Perciò l'atteggiamento verso la vita sarà di essere sempre in ascolto, di predisporre sempre la mente ad accogliere ciò che Dio vorrà dirgli. Se non è facile avere una mente sempre all'ascolto, lo è ancora meno richiamare alla mente con un atto di volontà le verità cristiane quando tutto va esattamente all'opposto delle nostre speranze. Una delle verità basilari della fede cristiana è che Dio è amore. Questo significa che tutto ciò che capita è sempre il risultato dell'amore di Dio, ma quando questo amore Dio lo dimostra in un modo a noi non gradito, occorre uno sforzo del nostro intelletto per considerare l'aspetto della benevolenza di Dio. Ne è un esempio il profeta Geremia. Geremia è stato l'uomo che, come egli stesso disse, ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Lamentazione 3.1. Infatti il profeta vide Gerusalemme conquistata dai pagani, vide donne e bambini massacrati, vide profeti e sacerdoti uccisi, eppure in questo estremo dolore si rivolse in preghiera all'Eterno dicendo: «Ricordati della mia afflizione e del mio vagare, l'anima mia se ne ricorda del continuo, ed è abbattuta del continuo, ed è abbattuta dentro di me». Questo voglio richiamare alla mente, e perciò voglio sperare. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Lamentazioni 3.19.23. Geremia aveva tutte le ragioni per lamentarsi e, se vogliamo, anche quella di perdere la fede in un Dio che fino a quel momento lo aveva protetto e sostenuto, ma con uno scatto di reni fece appello alla sua volontà e con essa richiamò alla mente le compassioni di Dio. Quali compassioni poteva richiamare alla mente il profeta Geremia quando una città e abitanti erano interamente distrutti? Decene. Dove erano le compassioni di Dio in questa catastrofica esperienza? Quando Giobbe perse i suoi beni, i suoi figli, adorò l'Eterno. Questo è possibile anche senza l'aiuto della mente, ma cosa dire quando nulla va per il verso giusto? Ebbene, Geremia fece una semplice constatazione. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. L'atteggiamento del profeta Geremia non è stata la politica dello struzzo, non è voler vedere bianco quando tutto è nero. Geremia, di fronte alla massima disgrazia, non se l'è raccontata dicendo che tutto andava bene, ma ha fatto appello a un ragionamento logico, razionale, obiettivo, reale. Geremia ha considerato che alla fine, nella profonda disgrazia, vi era comunque la grazia di non essere stati completamente distrutti. Il popolo di Israele era stato sì vinto, molti erano stati sì uccisi e molti altri erano stati deportati in esilio. Ma, dopo tutto, vi era ancora un residuo scampato. Non tutto era perduto. Avere questo atteggiamento mentale nelle avversità non è un dono che si riceve dalla nascita, non è una grazia accordata solo ad alcuni, ma è un esercizio mentale che ogni figlio di Dio deve fare giorno dopo giorno. Poco prima di andare in pensione ebbi un infortunio molto serio ad una mano. Accadde che alcuni quintali di ferro mi colpirono la mano destra e io avvertii il dolore e il calore tipico di chi veniva schiacciato da un peso immane. Poiché portavo i guanti da lavoro, con una certa trepidazione mi sfilai il guanto per vedere cosa mi rimaneva della mano e, con mio stupore, vidi che un solo dito era stato completamente schiacciato, mostrando il bianco del tendine, senza perdere una sola goccia di sangue. Andai subito in ufficio per farmi curare e, mentre gli altri erano impressionati dalla mia mano, io non potevo trattenere un sorriso per averla ancora intatta e solo un dito schiacciato. Ad un certo punto la moglie del datore di lavoro mi chiese: «Signor Balzani, è sicuro di non aver ricevuto anche un colpo alla testa? Avere una mente trasformata da Dio significa vedere cose positive dove altri non vedono. Significa rallegrarsi quando umanamente si hanno tutte le ragioni per disperarsi. Non vi è nulla, ma proprio nulla, in questo mondo che dovrebbe portare il credente alla massima disperazione o all'estremo gesto del suicidio, perché per quanto le cose vadano male, egli ha la certezza di rimanere per l'eternità un figlio di Dio e di andare alla presenza di Cristo per goderne la gioia e la gloria. Queste non sono chimere, ma realtà che, una volta penetrate nella mente, trasformano una vita. Noi siamo il nostro cervello, e un cervello trasformato da Dio volge il negativo in positivo. Ci è qualcosa di più prezioso? Ecco perché trascurare di avere delle attenzioni nei confronti del nostro cervello, cioè la nostra mente, è uno degli errori più gravi che una persona possa commettere, ma chi lo ha capito metterà il suo massimo impegno a proteggere la sua mente da ogni ingerenza dannosa. Quando penso al dono di avere una mente trasformata dallo Spirito Santo, ho presente una donna nativa di Montella, in provincia di Avellino, residente a Correggio, in Emilia, di nome Leonarda. Cianciulli, sposata e separata con 4 figli, la quale, con i corpi di persone da lei stessa trucidate, faceva del Durante il processo a suo carico, un medico legale le disse che non era possibile un'operazione del genere. E lei, tutta risentita, rispose: «Datemi in quest'aula di tribunale un cadavere di qualsiasi età e ve lo dimostrerò». Noi siamo inorriditi di fronte a tale atteggiamento, ma dobbiamo confessare che senza la misericordia di Dio noi tutti, ma proprio tutti, siamo potenzialmente come Leonarda Cianciulli. Una mente naturale non toccata dalla grazia di Dio può compiere ogni sorta di orrore. Ne è dimostrazione la storia mondiale, così ricca di uomini e popoli che hanno compiuto le più orride azioni. Non a caso la parola di Dio sentenzia negativamente il pensiero dell'uomo che non pone fede nel Dio creatore. Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti. Romani 1.2-1.22. Il cervello è un grande dono di Dio, tramite esso possiamo compiere grandi imprese ed esprimere sublimi pensieri, ma può anche rendere insensato chi non accetta la rivelazione di Dio. Come sta scritto, Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno ricercato molti artifici. Ecclesiaste 7.29. Chi non ha conosciuto persone amabilmente intelligenti, dotate di tante virtù, ma che quando si tratta di parlare di Cristo esprimono ragionamenti senza senso? Quello che valorizza gli uomini è il loro pensiero, perché esso è la natura di ogni loro azione, è la parola interiore del loro spirito. Perciò, quando rifiutano la rivelazione di Dio, non solo diventano stolti, ma, come sta scritto, nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore, sono diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Efesini 4.17-19. Non è forse il messaggio del Vangelo la risposta alla società moderna? Perché ottiene tanta opposizione? Proprio perché siamo tutti, senza eccezione, dei potenziali insensati, chi ha posto fede in Cristo eleva un preghiera che potrebbe suscitare stupore. Investigami, o Eterno, e mettimi alla prova. Purifica col fuoco la mia mente e il mio cuore. Salmo 26. 2. Chiedere a Dio di togliere dalla mente ciò che non è gradito a Lui è realizzabile solo se si è profondamente convinti della corruzione totale del proprio intelletto e dell'impossibilità di comprendere i misteri di Dio. Pochi credenti hanno compreso con il loro intelletto e sono profondamente convinti nel loro cuore che nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio. 1 Corinzi 2.1.1. Perché se questa fosse la realtà di chi è nato di nuovo, nessuno si vanterebbe di aver compreso in parte i misteri di Dio, nessuno si affiderebbe alla propria intelligenza per afferrare le rivelazioni di Cristo. Il credente più di ogni altro è consapevole della propria corruzione e per questo accetta serenamente le strette ed angustie vie decretate da Dio per il suo bene. Più di una volta nella parola di Dio sta scritto: io, l'Eterno, investigo il cuore. Metto alla prova la mente per rendere a ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Geremia 17:10. Quando Dio mette alla prova la mente non vi è prova maggiore. Se noi siamo la nostra mente, se siamo ciò che pensiamo, significa che quando Dio mette alla prova il nostro intelletto, mette alla prova la parte più profonda del nostro essere. Quando un corpo è provato nel crogiolo della sofferenza, la mente rimane normale e controllabile, ogni dolore è anche sopportabile. Ma quando è la mente sotto il torchio, non vi sono aiuti che possono intervenire. Un corpo nel dolore è aiutato dalla ragione, ma quando la ragione è sotto prova, chi può aiutarla? Questa domanda acquista il suo più profondo dramma sul Golgota, quando Gesù, nel suo smarrimento intellettuale, gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni ritengono che Gesù sulla croce recitasse il Salmo 22, ma poiché in quel momento Gesù non stava recitando, dobbiamo concludere che sulla croce il Figlio di Dio, nella sua completa umanità, non aveva una risposta a ciò che stava succedendo e chiese a Dio il motivo del suo abbandono. Molto sicuramente questa prova intellettuale era maggiore del dolore fisico. Una sofferenza compresa intellettualmente si sopporta anche volentieri, come il parto di un bambino o la fatica snervante di un lavoro gradito. Ma quando viene meno il supporto della ragione in una situazione drammatica, chi è in grado di sopportare la sofferenza? Solo la fede in un Dio che prova le menti e i cuori rende fruttuoso, utile e positivo ciò che potrebbe danneggiare o annientare. Un intelletto che si interroga non è prova di un animo turbato. Il profeta Isaia disse: alla mente che riposa in te tu conservi una pace perfetta, perché confida in te. 26:3. In effetti, ciò che il Dio Trino richiede a coloro che hanno donato la loro vita e la loro mente a Lui non è di comprendere ogni cosa, ma di avere una smisurata ed illimitata fiducia in Lui. Sempre il profeta Isaia afferma: chi è cieco se non il mio servo, o sordo come il mio messaggero che invio? Chi è cieco come colui che è in pace con me, cieco come il servo dell'Eterno? Isaia 43.19. Sì, essere dei cristiani significa avere le più grandi risposte alla vita complessa del presente e all'esistenza futura, ma contemporaneamente anche vivere per fede, cioè non comprendendo appieno le vie di Dio, pur continuando intellettualmente a credere che il Dio Trino sia amore, sia giusto e santo, e proclamandolo come tale anche davanti ad eventi incredibilmente dolorosi, quando Gesù morì in croce non si chiese se Dio era giusto o se il Padre lo amava, ma domandò a Dio il perché del suo abbandono. Alcuni ritengono il grido disperato di Gesù fosse solo una forma, ma su quella croce Gesù Cristo si stava veramente chiedendo il motivo del suo abbandono da parte di Dio. Non comprendeva, ma confidava. Una mente che si è arresa senza condizioni a Dio riceve la mente di Cristo. 1 Corinzi 2.16 ha la legge di Dio nella mente, Ebrei 10.15, e per questo gli è chiesto solo di essere trasformato nel suo agire secondo il rinnovamento della sua mente. Dobbiamo ripeterlo con forza. Noi non abbiamo un cervello come se questo fosse un accessorio in più, ma in realtà noi siamo il nostro cervello. Noi siamo ciò che pensiamo perché è quello che pensiamo che ci porta ad essere quello che siamo. E proprio per questa grande verità verrà il giorno in cui il nostro cervello, il nostro pensiero, il nostro intelletto sarà trasformato al punto che ogni ricordo di sofferenza, di disperazione, ogni ragione di pianto saranno completamente dimenticati. Non è un'inutile chimera di un ingenuo credente che vuole dimenticare ad ogni costo ogni sofferenza, ma una beata speranza basata sulla parola di Dio, poiché ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Isaia 65:17. Questa è la grande attesa che non solo il mio cuore ma pure il mio intelletto possiede. Che dire? Penso ad ogni figlio di Dio e per loro non cesso di chiedere al Dio Trino, assieme dell'Apostolo Paolo, che siano ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza ed intelligenza spirituale. La ragione è la puttana di Dio, Lutero. Gennaio 2007. Ellero.